Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, ben ritrovati con noi. Non facciamo altro che parlare di risparmio energetico delle nostre case, occupandoci spesso di tutte le novità fiscali che invogliano le famiglie ad eseguire tutti quegli interventi di manutenzione volti proprio a migliorare la prestazione energetica dell'abitazione, a beneficio della temperatura e quindi del consumo di elettricità e gas. Negli ultimi anni sono stati migliaia gli interventi di riqualificazione eseguiti grazie agli incentivi fiscali negli immobili italiani. Oggi vorremmo fare un passo avanti per parlare anche della cosiddetta casa intelligente e di una importante novità recente nel settore della domotica, che è quel settore che si occupa dello studio delle tecnologie che hanno l'obiettivo di migliorare la qualità della vita nella casa. Nei giorni scorsi infatti è stato reso noto questo importante accordo fra quattro grandi aziende, Electrolux, Enel, Indesit e Telecom Italia, che svilupperanno dei servizi innovativi basati sulla comunicazione fra gli elettrodomestici di futura generazione. E allora, come diventeranno le nostre case grazie al progetto che si chiama Energy Home, Casa Energia? Ce lo spiegheranno direttamente gli autori. Eddie Fabbro, capo del progetto, membro del centro di ricerca di Electrolux, Livio Gallo, direttore divisione infrastrutture e reti di Enel, Adriano Mencarini, direttore innovazione digital design di Indesit e Felice Fulvio Faraci, responsabile Research and Trends di Telecom Italia. E allora, se questo progetto vi incuriosisce, se in termini generali vi incuriosisce proprio il concetto della domotica e della casa intelligente, chiamateci all'800 24 00 24 o scriveteci al 349 238 6666, vi faremo interagire con i nostri ospiti di questa mattina, ma naturalmente soprattutto abbiamo l'obiettivo di spiegarvi questa rivoluzione in arrivo nelle nostre case, ovviamente con il tempo. Per adesso partirà una sperimentazione che durerà un anno, ma cercheremo di comprenderne tutti i dettagli. Prima però la borsa, andiamo a dare un'occhiata al mercato. Stamattina giornata pessima, abbiamo cali di 2 punti a Londra e a Francoforte, -2,34% a Parigi, -2,09% a Milano. Succede che scendono pesantemente i titoli dell'auto dopo i dati di BMW, ma soprattutto scendono di nuovo i titoli bancari per le cattive notizie che arrivano da Londra. Il governo britannico ha fatto sapere che inietterà 25 miliardi di sterline nel gruppo bancario Royal Bank of Scotland, di cui arriverà a controllare l'84% del capitale, mentre un'altra ricapitalizzazione è in vista per Lloyds, 21 miliardi, in parte con un aumento di capitale. Il gruppo ha fatto sapere che però non farà ricorso al piano governativo di protezione degli asset tossici. Tutto questo stamattina trascina giù i titoli bancari e, come vi dicevo, anche la auto. A Milano reggono l'Automatica +0,50%, Eterna +0,09%, e qua finisce la lista dei titoli positivi, mentre abbiamo cali abbastanza pesanti su Autogrill -3,73%, Bulgari -3,39%, Unicredit -3,33%, e c'è una sfilza di titoli che perde più di 3 punti percentuali: CIR, Impregilo, la Popolare di Milano, Fondiaria, Italcementi, Prismian, Intesa San Paolo, Buzzi Unicem, Banco Popolare, Mondadori, Monte dei Paschi, e qua abbiamo finito, ma praticamente sono quasi tutti quanti. Direi che possiamo lasciare la borsa. Il dollaro continua a recuperare sull'euro, siamo oggi a 1,4634, però lasciamo la borsa e andiamo invece al tema di oggi. Allora, come vi dicevo, vi spieghiamo come funzionerà questa casa energia. Una casa intelligente che fa risparmiare soldi e non spreca energia. Oggi un elettrodomestico moderno contiene più microprocessori di un personal computer e, se collegati fra loro da un contatore elettronico intelligente, il risultato è l'ottimizzazione dei consumi energetici e grossi risparmi sulle bollette. Non è fantascienza, ma un progetto su larga scala avviato da Enel, il gigante degli elettrodomestici Indesit, il fornitore di settore Electrolux e Telecom Italia, che sarà attivo tra un anno. Si chiamerà Energy at Home e collegherà tramite una rete wireless le piccole intelligenze artificiali presenti nelle moderne lavastoviglie e lavatrici. Al contatore elettronico Enel arriveranno dati certificati relativi alla misura dei consumi elettrici e i nostri elettrodomestici intelligenti saranno in grado di adattare il loro funzionamento a seconda delle condizioni di carico della rete e di spesa, massimizzando l'efficienza e riducendo gli sprechi. La lavatrice potrà dire all'utente la potenza disponibile dalla rete elettrica in quel momento, oppure consigliare di posticipare il lavaggio di qualche ora con tanto di conteggio dei centesimi di euro risparmiati. Il progetto collegherà 32 milioni di contatori elettrici con i server Enel. Se questo sistema informatizzato verrà sfruttato appieno, il risparmio totale potrebbe essere molto consistente, equivalente a un paio di centrali elettriche di media grandezza. E allora 800 24 00 24, se volete intervenire per soddisfare le vostre curiosità sul tema di cui parliamo oggi, il progetto Energy at Home, ma soprattutto un po' tutto ciò che concerne il tema della domotica legato agli elettrodomestici di nuova generazione. Allora, stamattina avete già sentito gli ospiti che saranno con noi. Comincio con il capo di questo progetto, Eddie Fabbro, membro del centro di ricerca Electrolux. Benvenuto a Salva Danaio. Buongiorno a tutti. Buongiorno e grazie di essere con noi. La domanda d'inizio le sembrerà piuttosto banale, è sempre quella, però ci piacerebbe capire qual è stata la genesi di questa iniziativa. Dottor Fabbro, come mai avete pensato di unire le forze, sulla base di che esigenza di mercato avete voluto dar corpo a questo progetto? Ci siamo accorti già da parecchio tempo che ormai le nostre apparecchiature devono essere in qualche maniera, devono diventare apparecchiature sociali, devono connettersi ad altre fonti di informazione per poter dare un servizio in più all'utente. E per questo motivo noi già stiamo partecipando da alcuni anni a delle iniziative a livello europeo con delle utility europee, e tra cui anche Enel, proprio per vedere come possiamo fare in maniera che le nostre apparecchiature siano più disponibili a dare sia energia nei tempi giusti che l'energia al costo più ridotto possibile. Durante uno di questi questi meeting con i nostri partner, un meeting in un progetto address, un progetto europeo che si occuperà di progettare le reti elettriche del futuro, parlando con i nostri attuali partner di Enel, ci siamo resi conto che esistono ormai di fatto dei fattori abilitanti questo tipo di collaborazioni. Enel, da canto suo, ha 32 milioni di contatori elettronici. Noi come produttori di elettrodomestici abbiamo già delle macchine in grado di dare dei display dove possono essere fornite delle informazioni all'utente, per cui ci siamo detti perché non pensare di testare subito qualcosa che dia un valore aggiunto all'utente. Come funzionerà questo test, dottor Fabbro? Avete già attivato, non lo so, magari una platea di, come dire, consumatori volontari che saranno sottoposti teoricamente all'interno delle loro abitazioni a questo test? Come funzionerà concretamente? Come rileverete appunto le esigenze del mercato attraverso il test? Allora, innanzitutto dobbiamo trovarci tra di noi, fra gli attori che potranno creare questo valore aggiunto, e quindi definiremo i messaggi necessari affinché appunto questi attori del sistema, che sono i produttori di elettrodomestici, quali maggiori consumatori di energia nelle case, sono le telecom, perché possono fornirci delle informazioni anche in mobilità, e sono ovviamente le utility che ci forniscono l'energia elettrica, ci siediamo attorno a un tavolo e cerchiamo di capire quali sono i messaggi che ci daranno l'opportunità di capirci innanzitutto e di scambiarci informazioni utili. Passato questa prima fase, passeremo alla fase prototipale, questo avverrà verso metà del prossimo anno, e realizzeremo i primi prototipi per testare proprio questa connessione a livello di laboratorio. A fine del test di laboratorio, che si presume sarà circa tra un anno, provvederemo appunto a testare da utenti veri e quindi ottimizzare soprattutto l'interfaccia utente, la maniera in cui gli utenti interagiranno con queste apparecchiature. Quindi l'utente arriva solo fra 12 mesi. In primo luogo dovete trovare il sistema di dialogo fra di voi, ma credo che già stiate a buon punto, dottor Fabbro, perché altrimenti non credo che avreste annunciato alla stampa, no, tutta questa partenza di questo progetto, oppure non avete ancora parlato, credo di sì. No, ci siamo parlati, come le dicevo, ormai c'è un discorso che va avanti da più di un anno e ci siamo ritrovati su questo. Benissimo. Ma prima di andare in casa l'utente vogliamo essere sicuri di andare in maniera da non creargli sicuramente degli inconvenienti e da testare tutto per bene. E certo, in modo tale che poi il test possa dare nell'immediato un risultato utile, un feedback, come si dice, no? Un riscontro abbastanza immediato. Allora, poi sentirò Mencarini di Indesit e Faraci di Telecom. Volevo però, come seconda domanda, girarla a Livio Gallo, direttore della divisione infrastrutture e reti di Enel. Peraltro non ho detto una cosa importante relativamente a questo progetto, che è primo al mondo per infrastruttura, 32 milioni di contatori elettrici dialoganti con i server Enel, un progetto che genererà una tecnologia che verrà diffusa persino in tutta Europa con l'impegno della Commissione Europea e persino degli Stati Uniti. Dottor Gallo, un passo avanti ulteriore, so che lei ci tiene molto a dire la sua su questo punto, nello sviluppo delle cosiddette smart grids. So che stamattina utilizzeremo un po' di termini in inglese, ai nostri ascoltatori non piace, ma la casa di nuova generazione deve anche parlare un po' in un'altra lingua. Comunque sono le cosiddette reti intelligenti. Di cosa stiamo parlando, dottor Gallo? Grazie dottoressa, buongiorno a tutti. Buongiorno. Noi stiamo incentivando il paese oramai da parecchi anni, come lei ha detto, con il progetto dei 32 milioni di contatori, da un lato perché come Enel ci consideriamo un forte innovatore dal punto di vista tecnologico, dall'altro perché siamo supportati anche da tutte le amministrazioni dello Stato, tra cui in particolare l'autorità per l'energia elettrica e il gas, che è quella che in qualche modo regola e guida le nostre attività, che è molto sensibile in Italia a questo tipo di tecnologia e di innovazione. Ora, i contatori elettronici, che sono 32 milioni funzionanti in Italia, più 4 milioni presso le altre utilities italiane, le altre municipalizzate italiane, sono la base di quello che poi diventerà la rete intelligente del futuro, quella che noi chiamiamo smart grids. Nel futuro la rete, con tutte le rinnovabili che verranno collegate, tipo il fotovoltaico sul tetto delle nostre abitazioni, l'eolico, le turbine a gas nelle cantine dei nostri condomini, non porteranno più l'energia elettrica in una sola direzione, come avviene oggi, dalle grandi centrali al cliente, ma la rete elettrica del futuro dovrà funzionare, consentitemi un po' il concetto, come oggi funziona internet, cioè portare l'energia in tutte le direzioni. L'obiettivo delle rinnovabili, della gestione delle rinnovabili da parte delle reti intelligenti, è quella della riduzione dei gas serra, delle emissioni di CO2. Quindi le reti elettriche del futuro hanno sostanzialmente tre obiettivi. Uno, di far partecipare il cliente in modo più attivo al mercato dell'energia, e questo passo con Indesit, Electrolux e Telecom va sicuramente in questa direzione, perché diamo delle informazioni ai clienti, agli utenti finali di elettricità, in modo che ci sia un uso sempre più intelligente dell'elettricità. Il secondo obiettivo delle reti elettriche del futuro è l'efficienza energetica. L'efficienza energetica sotto varie forme. Noi dobbiamo mettere a disposizione tutte le possibili informazioni e i possibili sistemi per fare in modo che i nostri clienti utilizzino in modo sempre più intelligente l'energia. Mi dice al volo il terzo, che devo andare in pausa, dottor Fabbro, poi ce la faccio ritornare. Il terzo è la gestione delle energie rinnovabili, quindi che arrivano dall'eolico, dal fotovoltaico, e anche degli energy positive building, che sono gli edifici che anziché assorbire energia la immetteranno nella rete. Volevo sentire Adriano Mencarini, direttore innovazione digital design di Indesit, il secondo gruppo europeo produttore di elettrodomestici, il distretto di Fabriano, quindi un fiore all'occhiello anche del Made in Italy. Dottor Mencarini, mi chiedo se avete già pensato al primo elettrodomestico da mettere a disposizione di questo grande progetto. Partiremo con la lavatrice? Innanzitutto buongiorno a tutti. Buongiorno anche a lei. È che io cerco proprio di calarmi, come dire, nelle domande degli ascoltatori. Certo. Per quello che ci riguarda, noi abbiamo a disposizione una piattaforma elettronica che sostanzialmente è trasversale all'interno di tutti i prodotti, quindi possiamo permetterci di partire con praticamente tutta la gamma di prodotti che facciamo, che sono frigoriferi, tutta la gamma di cottura, quindi forni e piani, lavatrice, lavasciuga e dryer e lavastoviglie. Quindi praticamente abbiamo tutta la nostra gamma a disposizione per questo progetto. Qual è oggi, dottor Mencarini, l'elettrodomestico in assoluto, secondo le novità tecnologiche più recenti, più intelligenti? Insomma, dove sono arrivate le novità tecnologiche? Quali traguardi abbiamo già raggiunto prima di approdare poi al progetto Energy at Home, che è sicuramente un'evoluzione estremamente importante, se non una vera e propria rivoluzione? Per quello che ci riguarda, la maggior parte delle energie le abbiamo sempre dedicate alla lava biancheria, che è un po' il nostro cavallo di battaglia da questo punto di vista. Noi oggi produciamo lava biancheria che sono sostanzialmente in grado di riconoscere la quantità di carico piuttosto che la tipologia, e in particolare ultimamente siamo usciti anche sul mercato con la possibilità di dosare di detersivo. Praticamente la lava biancheria riconosce la quantità di detersivo da dosare all'interno del carico, sempre il cliente si deve occupare di questa, diciamo. In ogni caso l'obiettivo è sempre il risparmio energetico dell'elettrodomestico. L'obiettivo è duplice, sicuramente abbiamo a cura l'ambiente, ma sicuramente abbiamo anche a cura il cliente. Il risparmio energetico è sicuramente primario, però anche la facilità d'utilizzo da parte del cliente, così come il risparmio sia di energia, di acqua, ma anche di detersivo nel caso della biancheria, è al centro delle nostre attenzioni. Allora, volevo ricordare che nei giorni scorsi, in concomitanza con la divulgazione di tutte le notizie relative a questo progetto, anche Nova 24, che è il nostro settimanale, il settimanale del Sole 24 Ore dedicato alle nuove tecnologie, ha pubblicato tutti i dettagli rispetto a questo progetto, appunto Case Salva Energia, che coinvolgerà milioni di famiglie per potenzialmente farle risparmiare, e con una grafica che io adesso non sarei neanche in grado di ricostruirvi per rendervela così nel miglior modo. C'è un grafico che ricostruisce proprio tutta l'interazione fra telefono, contatore dell'Enel ed elettrodomestici in questa casa Salva Energia. Cerchiamo allora di capire la rete Telecom cosa farà in tutto questo. Felice Fulvio Faraci, l'ho lasciata per ultimo, ma non volevo essere scortese naturalmente, è responsabile Research and Trends di Telecom Italia, buongiorno anche a lei. Buongiorno a lei, ascoltatori. Voi state sviluppando, da quello che ho capito, una versione estesa del vostro modem ADSL Alice, e attraverso questo poi gli elettrodomestici teoricamente e Enel saranno capaci di dialogare tra di loro? Sì, sì, non solo teoricamente ma anche praticamente. Come ha detto il dottor Gallo, la rete elettrica sta evolvendo verso internet, e per fare questa evoluzione è necessaria la larga banda, e noi ci poniamo quindi nel progetto come abilitatori della comunicazione. Abilitazione della comunicazione sia fra gli elettrodomestici, e gli applicativi in rete, nei data center che saranno in rete, dove ci sarà il software che permetterà di gestire questo sistema e quindi di gestire l'efficienza energetica del sistema complessivo, ma anche la comunicazione fra le persone, i clienti, le persone, noi tutti, e la nostra casa domotica, i nostri elettrodomestici, e quindi attraverso il telefonino piuttosto che il proprio PC, piuttosto che anche la televisione, poter controllare i consumi, ma anche poter comandare questi elettrodomestici da remoto. No, tra l'altro stavo guardando anche che praticamente per permettere il dialogo fra gli elettrodomestici, tra frigoriferi, lavatrici e lavastoviglie intelligenti, oltre alla DSL di casa vostra, dovrà essere attivato anche il lavoro di una piccola rete locale radiodomestica ZigBee. È una cosa tecnologica ovviamente che vorrei cercare di tradurre, dottor Faraci, ai nostri ascoltatori, per capire anche magari chi parteciperà a questa sperimentazione che cosa si troverà per le mani. Certo, ZigBee è una tecnologia radio abbastanza innovativa e nuova, che è nata proprio nell'ottica dell'internet delle cose, cioè di connettere tutti gli oggetti a internet. È una tecnologia radio a basso consumo ovviamente e anche a basso costo, che permette di interconnettere gli oggetti fra di loro e, oltre che fra di loro, anche interconnetterli a dei gateway, in questo caso il modem di Alice, che li porta in rete, quindi li porta su internet, sulla rete a larga banda, e quindi permette che le informazioni che sono al loro interno, nei microprocessori che lei citava, oggi fanno parte della gran parte degli elettrodomestici, far transitare queste informazioni verso le applicazioni e verso i clienti. No, tra l'altro, dottor Faraci, siccome io sono abbastanza una persona digiuna di tecnologia, lo devo ammettere qui, anche se in genere spingo molto spesso gli ascoltatori a documentarsi quanto più possibile per tutto su internet per trovare le offerte per i propri servizi migliori e quant'altro, mi chiedo se la nostra comunità è pronta a tutto questo. So che ci vorrà ancora del tempo, ma in ogni caso abbiamo visto negli anni passati, come per esempio la rivoluzione le grandi rivoluzioni che hanno riguardato anche le piccole tecnologie, per esempio, non so, i telefonini. 10 anni fa li pagavamo 1 milione di lire, oggi con 70 euro riusciamo naturalmente a cambiare il telefonino ogni mese. Quindi, secondo lei, partendo anche con i tempi che vi siete dati, entro quanto tempo potrà essere possibile trovarsi tutti questi cambiamenti all'interno delle case delle famiglie italiane? Ma questo è un progetto di ricerca, quindi sicuramente un progetto che ha un respiro di alcuni anni almeno. Come lei ha citato prima, i risultati applicativi in campo si avranno i primi risultati fra un anno. È chiaro che questo progetto avrà una velocità tanto maggiore quanto il beneficio di tutti gli attori di questa complessa catena, quindi gli utenti che utilizzano gli elettrodomestici, che quindi saranno invogliati a comprare degli elettrodomestici più risparmiosi, mi faccia dire, sia i produttori di elettrodomestici avranno un beneficio. Certo, perché ci sarà anche poi un programma, immagino, di conversione tra vecchie e nuove tecnologie che non potrà essere fatta nel giro di due mesi, immagino. Assolutamente. La rete, come diceva il dottor Gallo, la rete Enel avrà dei benefici sulla gestione dei carichi di rete e Telecom avrà dei benefici per l'ampliamento dell'utilizzo della larga banda anche ad applicazioni che hanno un impatto sociale compatibile. Infatti. Allora, più che l'impatto sociale, adesso vorrei vedere l'impatto economico. C'è una domanda di un ascoltatore di Roma, io gliela lascio fare, Edoardo, in modo tale che le possiamo rispondere alla ripresa di Salvadanaio dopo i suggerimenti per chi è in viaggio. Edoardo, ci dica quali sono le sue perplessità. Edoardo ci ha chiamato all'800240024, naturalmente potete continuare a prenotarvi se riusciremo, speriamo, a sentirne il più possibile di voi. Edoardo. Buongiorno. Buongiorno. Occupandomi di domotica è un problema il cablaggio, perché sulla rete radio spesso vi sono interferenze dovute alle strutture, per cui è un bisognerebbe ricablare, per avere una rete efficiente, ricablare l'intera casa. Sarà necessario rivedere da questo punto di vista tutte le abitazioni, ci penserete dopo la sperimentazione? No, è stato uno dei primi problemi che vi siete posti di progetto, quello che se vogliamo che questo sistema decolli, è necessario che sia semplice e trasparente agli utenti. Cioè il cliente deve poter comprare un elettrodomestico, metterlo in casa e automaticamente questo elettrodomestico si presenterà alla rete domestica, alla rete larga banda, capace di interfacciarsi già con il annunciandosi. Esattamente. Questo avviene appunto tramite quella tecnologia che lei citava prima, ZigBee, che è una tecnologia radio a bassa potenza e a basso consumo, ma che ha delle caratteristiche proprio per come è stata progettata, per lo scopo in cui è stata progettata, che permette agli oggetti di presentarsi in una rete e autoconfigurarsi, e quindi permette all'oggetto di presentarsi ed essere messo subito in rete. Per le prossime due domande vorrei ritornare al capo progetto, ad Eddie Fabbro, capo del progetto appunto e membro di ricerca, membro del centro di ricerca di Electrolux. Tra l'altro prima ho chiamato il dottor Gallo di Enel. Fabbro, mi scuserà, avrà capito che era un refuso, ma intanto sentiamo Giacomo da Bari. Giacomo. Salve, buongiorno. Buongiorno. Niente, io volevo chiedere una cosa, io sono in procinto praticamente di trasferirmi in villa. Sì. Quindi avevo la voglia di capire prima di tutto se c'era se e come era possibile entrare a far parte di una programmazione, della programmazione sperimentale. Se tra l'altro invece poi volevo sapere anche se avevano preventivato un costo di tutto quello che è l'impianto di cui stiamo parlando. Infatti. E se tutti gli elettrodomestici che abbiamo adesso potranno essere upgradati, e quindi se non bisognerà comprarne per forza. E infatti il tema della riconversione che indicavo prima. Grazie Giacomo, volevo sentire anche Massimo da Pistoia, così magari poi faccio una chiacchierata conclusiva con Fabbro di Electrolux. Massimo. Salve, buongiorno. Io vi porterò leggermente fuori tema. Speriamo di no, non però tanto. È una cosa... Come scusi? No, non ci porti tanto fuori strada. No. Io ho fatto un impianto a pellet anziché a gas. E dopo appena 3 anni mi vedo il pellet rincarato del 40% e il gas solo del 10%, quindi a questo punto il mio risparmio è andato a carte 48, anzi mi ritrovo ad aver fatto una spesa per senza nulla. Può abbassare la radio Massimo se ci arriva con la mano gentilmente? È spenta. Ah, vabbè, sentiamo un eco, allora forse è un problema di telefono. È viva voce. Quindi lei dice in sostanza, non è che io magari così mi ingegno e mi attivo per portare a casa mia la miglior tecnologia destinata al risparmio, poi nel giro di 2 anni in realtà scopro che per tutta una serie di problematiche legate magari alla congiuntura economica che non c'entrano niente con me, mi ritrovo che questa nuova dotazione tecnologica non fa più risparmiare niente, almeno non mi fa risparmiare quanto era nel preventivo iniziale, così nel mio obiettivo iniziale, Massimo. È questa l'obiezione? Sì, mi sente? Sì, adesso volevo sì. Volevo dire, è siccome anche il fotovoltaico non mi dà nessun affidamento dopo questa esperienza, in quanto tra manutenzioni, poi ogni 15 anni escono le nuovi pannelli, eccetera, probabilmente mi dicono di sostituirli. In più le do un'idea per una prossima trasmissione. Vorrei sapere perché io, che sono monoreddito con 3 figli, devo pagare sempre molto di più perché consumo di più. Capisce? Allora Massimo, no, la ringrazio, adesso mi sta portando davvero fuori strada. Se vuole su quest'ultimo punto ci scriva e noi prenderemo in considerazione la sua situazione. Per il resto però le prime due obiezioni sono interessanti, però partirei da Giacomo da Bari. Eddie Fabbro, Electrolux, lei è a capo di questo grande progetto. Allora intanto Giacomo si vuole candidare a far parte della vostra sperimentazione, lo accogliamo, lo sentirete? Ma penso che si possa sicuramente sentire. Benissimo. Purtroppo, come ha sentito, di tutto sarà fra un anno. Ad ogni modo, sicuramente potremo considerare la possibilità. Tra l'altro, che platea di consumatori teoricamente, come dire, testerete? Sarà un po', come dire, un campione rappresentativo di tutta la realtà nazionale, andate un po' al sud, un po' al centro, un po' al nord? Questo dovrebbe essere proprio, sì. Dovremmo farlo, tra l'altro, puntando a consumatori che abbiano certe tecnologie o che decidano di avere certe tecnologie in casa. Ad esempio uno che non vuole il box Alice non potrà sfruttare appieno il sistema. Mi aggancio a questo per precisare che gli elettrodomestici attuali avranno la possibilità, perlomeno per una certa parte, di essere connettibili anche in seguito, perché proprio la tecnologia Zigbee che abbiamo scelto alla fine ci darà la possibilità di utilizzare cose che abbiamo già in casa e di portare nuove cose con questa tecnologia a bordo, che contribuiranno a rendere ancora più potente la mia rete domestica. Cosa vuol dire? Noi non andiamo a far comprare cose nuove all'utente, l'utente comprerà comunque la lavatrice, comprerà comunque o deciderà di fare un contratto con Telecom, avrà il nuovo box Alice, avrà comunque il contatore in casa. Ciascuno di questi oggetti avranno integrato un nodino Zigbee che entrerà in rete con tutto il resto della casa. Ovviamente più elettrodomestici avranno e sistemi domestici avranno a bordo questo nodino, e più questa rete avrà la possibilità di distribuire i messaggi all'interno della casa. Che costi avete stimato, dottor Fabbro, per un'unità familiare media? Ripeto, la macchina avrà a bordo già un nodino, quindi possiamo prevedere un piccolo incremento del costo della macchina, ma che sarà senz'altro compensato dai risparmi successivi. Ecco, anche questi li avete quantificati, perché per la verità c'è chi, come indirettamente ha fatto Massimo da Pistoia, non crede poi nel reale risparmio futuro. Molti percepiscono tutte queste rivoluzioni solamente come un grande investimento iniziale che poi nel tempo tutto sommato produce dei risparmi contenuti, relativi. Dottor Fabbro, a chi io sollevo questa obiezione, voi come state rispondendo? Perché non credo che non vi siate mai scontrati, no, anche con questo, con questa realtà di scetticismo. Ma probabilmente il dottor Gallo può rispondere meglio di me, ma da qui al futuro vedremo sempre un aumento di tariffe durante il giorno, che andranno a premiare utilizzi più risparmiosi, e quindi in zone non di crisi per la rete elettrica, e invece castigheranno brutti utilizzi durante le ore di punta. Questo vuol dire che, avendo più tariffe a disposizione durante il giorno, e queste tariffe potranno variare molto tra le ore di punta di giorno e magari le ore di scarso utilizzo di notte, il risparmio potrà essere notevole, e sarà sempre lo sarà sempre di più, perché ovviamente l'utente non potrà andare giorno e notte a controllarsi, ad attivare apparecchiature, ma se le macchine sono così intelligenti da farlo, sicuramente lo faranno per lui. Dottor Gallo, allora, visto che Fabbro l'ha chiamata, concludo con lei, ci rimane un minuto di tempo prima dei saluti per tornare appunto a rafforzare questo messaggio che vorremmo dare ai nostri ascoltatori, pur capendo naturalmente le perplessità soprattutto da parte di chi con le novità tecnologiche ha ben poca dimestichezza. Voi peraltro avete nella vostra, cioè avete praticamente fatto un diretto richiamo, leggevo così nella documentazione che mi è stata fornita per prepararmi su questo progetto, alla partenza da parte dell'autorità per l'energia della cosiddetta tariffa elettrica bioraria prevista per il prossimo anno. Non credo che sia più fissata questa partenza per l'inizio di gennaio, credo nel secondo trimestre dell'anno, se non addirittura il terzo. Cosa vuol dire questo legame, dottor Gallo, e come rispondiamo a chi teme di non fare, a fronte di un importante investimento, alcun tipo di risparmio nel proprio portafoglio? Io direi, dottoressa, che innanzitutto dobbiamo partire da una considerazione del passare dalla valutazione del singolo alla valutazione del collettivo, perché se tutti ci muoveremo in un'ottica di efficienza energetica, di obiettivi di risparmio, il sistema paese nel suo complesso e poi anche i singoli ne beneficeranno. Per rispondere all'ascoltatore che parlava dell'investimento sui pellets che sono... Sì, ce la fa in 30 secondi, dottor Gallo, perché sono già fuori. La ringrazio molto. Poi ci ritorno. Vi prometto che vi seguiremo sicuramente nel corso di tutta l'evoluzione del progetto. Mi dica. Volevo soltanto dire che questi discorsi vanno valutati nel lungo termine. Se è aumentato adesso, può darsi che diminuisca fra due anni e magari diminuirà di molto fra due anni. Il fotovoltaico è molto, molto sostenuto dal punto di vista degli incentivi. Fisco, vero. Collegato 1300 megawatt nel 2008 e più di 1000 megawatt, che sono tre grandi centrali, nel 2009, perché l'incentivo in Italia è uno dei più importanti in Europa. 55%, sì. Per quanto riguarda le bioradie, noi stiamo caricando in tutti i 32 milioni di contatori e termineremo circa metà nel 2010 la possibilità di avere la tariffa bioraria, che verrà poi individuata e emanata dall'autorità per l'energia elettrica e il gas, che consentirà, con lo spostamento dei consumi dalle ore di picco, dove l'energia costa di più, tipicamente a metà giornata, verso la sera, dove costa di meno, un sensibile beneficio economico, stante il sacrificio che chiediamo a tutti i nostri clienti, che però andrà a loro beneficio di spostare le loro abitudini di consumo. Benissimo, dottor Gallo, devo salutarla perché sono fuori di un minuto e mezzo. Io vi ringrazio, torneremo a parlarne. Grazie ad Eddy Fabbro di Electrolux, Livio Gallo di Enel, Adriano Mencarini di Indesit e Felice Fulvio Faracci di Telecom. Speriamo di aver chiarito per quello che è possibile, per una novità anche piuttosto complicata come questa, il tutto agli ascoltatori. Ci ritorneremo presto, intanto a domani, buona giornata.